Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. This is an historic moment from which there can be no turning back. The United Kingdom is leaving the European Union, not turning back. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, non si torna indietro. La Gran Bretagna sta lasciando l'Europa unita. Oggi, così con solennità, avete sentito, ha detto la prima ministra britannica Theresa May, perché con questa lettera consegnata, firmata da lei all'Unione Europea, è avviato ufficialmente l'iter del divorzio dall'Europa unita della Gran Bretagna. Ne parleremo anche con una scrittrice italiana che da tanto tempo vive a Londra, anche per capire un po' qual è l'atmosfera e quali sono le conseguenze che i cittadini europei, in particolare gli italiani, pensano di subire adesso con questo passaggio così delicato. Poi torneremo sulla vicenda di Alatri, del ventenne che è stato massacrato, pestato a morte fuori dal locale. C'è forse ancora in corso, tra poco ci collegheremo, una fiaccolata in suo ricordo nel suo paese. Ci sono degli sviluppi nell'inchiesta, pare che uno dei due fermati, dei due in carcere, fosse stato rilasciato il giorno stesso dal carcere nonostante avesse in macchina un enorme carico di stupefacenti. E poi, naturalmente, per non abbassare la media, abbiamo parlato ieri di un femminicidio avvenuto ieri, di un tentato femminicidio, oggi ce ne sono altri due, ormai tocca parlarne così come di un bollettino qualunque, insomma di routine, veramente è una cosa sconcertante, sconvolgente. Ci occuperemo poi di migranti, perché oggi è passato al Senato il decreto migranti, che introduce alcune novità, poi deve passare anche alla Camera, ma insomma diciamo è più o meno cosa fatta. Per la vostra interazione, per le vostre interazioni qui nel programma, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349 238 6666, 349 238 6666. Quindi molti argomenti da approfondire. Prima, come sempre, un riassunto della giornata. Brexit consegnata all'Unione Europea la lettera che avvia l'iter del divorzio. La prima ministra britannica May dice è stata eseguita la volontà del popolo, ma il presidente della Commissione Europea Juncker commenta è una scelta che rimpiangerete. L'inchiesta Consip in procura a Roma, il presidente della Puglia Emiliano sentito come testimone, il ministro Lotti dice sono sereno. Immigrazione, approvato in Senato il disegno di legge di conversione del decreto sui migranti, ora passa alla Camera, i minori non accompagnati non saranno più respinti. Elezioni amministrative, si vota l'11 giugno, i ballottaggi si terranno il 25. La violenza senza fine contro le donne dopo il femminicidio di ieri a Pinerolo e il tentato femminicidio con la vittima in fin di vita a Borgo Vercelli, oggi altri due nel Casertano e nel Parmense. Il ventenne pestato a morte ad Alatri, uno dei due fermati, era uscito dal carcere il giorno dell'omicidio e il paese di Emanuele lo ricorda con una fiaccolata. Rai, dubbi dell'avvocatura di Stato sul tetto ai compensi degli artisti. Premio Nobel, con 4 mesi di ritardo Bob Dylan andrà a Stoccolma a ritirarlo, ma sarà una cerimonia privata. E partiamo quindi dalla Brexit, dall'addio ufficiale della Gran Bretagna all'Unione Europea, sancito questo addio dalla consegna della lettera firmata dalla prima ministra britannica Theresa May all'Unione dei 27. È stata eseguita, ha detto la May, la volontà del popolo. Il presidente della Commissione Europea Juncker ha commentato è una scelta che rimpiangeranno, nonostante debolezze ed errori l'Unione Europea è il posto migliore al mondo dove vivere. E cosa ne pensate? Ci vorranno comunque 2 anni e lunghi negoziati che si preannunciano complicati, e queste sono le principali reazioni. Deve essere chiaro che essere membro dell'Unione Europea non è la stessa cosa che stare al di fuori. Quindi una trattativa dove noi difenderemo gli interessi dei cittadini. È tranchato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Decisioni unilaterali della Gran Bretagna che colpiscano i cittadini europei sarebbero illegali. Non raggiungere un accordo su questo significherebbe non raggiungere alcun accordo. Da Berlino Angela Merkel parla di un giorno questo non desiderato né dalla Germania né dagli altri partner europei. Poi anche da parte della cancelliera un monito affinché i cittadini europei in Gran Bretagna non debbano subire conseguenze. Rassicurazioni in questo senso arrivano dal capo negoziatore del Parlamento europeo per la Brexit, Verhofstadt, Rat. Faremo di tutto per minimizzare gli effetti sui cittadini, le sue parole. Un altro punto importante, sottolineato sia da Tajani che da Merkel, è che i negoziati sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea vengano prima di quelli sulla definizione delle future relazioni e non in parallelo, come invece richiesto dalla premier britannica May. Dall'Indonesia, dove si trova in visita, la reazione del presidente francese Hollande, secondo il quale la Brexit sarà dolorosa per i britannici. Trova che la Brexit possa cambiare lo scenario europeo regalando anche opportunità, in particolare a Milano e all'Italia, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, oggi a Londra insieme ad Alfano Maroni e Beppe Sala. Di poco fa, infine, il commento del premier Paolo Gentiloni: l'Italia lavora affinché lo shock di Brexit sia l'occasione per un risveglio europeo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche delle figure femminili nella storia della Gran Bretagna e in questo passaggio delicato. Le donne hanno sempre lasciato un segno profondissimo nella storia britannica. Le regine Elisabetta I e Vittoria hanno dato il nome ad un'epoca, mentre più recentemente Margaret Thatcher, premier per tutti gli anni Ottanta, resta l'esempio politico di chi si riconosce in un certo tipo di destra liberale. Eredità pesante, quella che cade sulle spalle di Theresa May, chiamata al confronto con altre due donne al centro della scena britannica. Nicola Sturgeon, prima ministra scozzese, è forse l'avversaria più temibile. La maggioranza degli scozzesi ha votato a favore della permanenza nell'Unione Europea e Sturgeon vuole ripetere il referendum sull'indipendenza fallito nel 2014. L'altra donna in campo è una newcomer ed è la leader del Sinn Féin, il partito indipendentista dell'Irlanda del Nord. Michelle O'Neill guida il movimento che con le ultime elezioni ha mancato il sorpasso sugli unionisti per appena 1200 voti. Forte della vittoria del Remain nella regione, ha invocato il referendum per la riunificazione con l'Irlanda. Tre donne con una quarta sullo sfondo, Elisabetta II, che potrebbe assistere alla disgregazione del suo regno. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E della Brexit, vi dicevo, torneremo a parlare più tardi qui, anzi tra poco, qui a Effetto Note, anche con questa scrittrice italiana che vive da tempo a Londra. La riunione degli ambasciatori dei 27 dell'Unione ha rivisto a ribasso la proposta della Commissione Europea che consentiva il finanziamento al 100% con i fondi europei delle spese di ricostruzione nelle aree colpite da terremoto e altre calamità naturali, portandolo quindi dal 100% di finanziamento al 90%. Vari paesi hanno avanzato riserve, chiedendo infatti che si mantenesse un'aliquota di cofinanziamento nazionale. Ora la palla passa al Parlamento europeo. E un altro tema che divide l'Europa è l'immigrazione. Mentre l'Austria annuncia la ripresa dei controlli sui treni al Brennero, due novità arrivano dal Parlamento italiano: l'approvazione definitiva della legge sui minori non accompagnati e il via libera del Senato al decreto sul piano migranti che torna alla Camera, decreto che vedremo più nel dettaglio nel corso di Effetto Note. E siamo all'inchiesta Consip. Oggi il presidente della regione Puglia, nonché candidato alle primarie del PD, Michele Emiliano, è stato sentito come testimone. Si è presentato in procura nel primo pomeriggio Michele Emiliano, sentito per circa un'ora come testimone nell'ambito del filone romano dell'inchiesta sugli appalti Consip. Il governatore della Puglia è stato convocato per i messaggi ricevuti nel 2015 dal ministro dello sport Luca Lotti, all'epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e da Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo, per sollecitare un suo incontro con l'imprenditore toscano Carlo Russo. Gli SMS sono stati acquisiti dai PM. Russo e Renzi sono entrambi indagati per traffico di influenze, Lotti invece per rivelazione del segreto d'ufficio. L'ipotesi degli inquirenti è che dell'amicizia fra Renzi e Russo possa aver beneficiato, per mettere le mani sugli appalti Consip, il personaggio chiave dell'inchiesta Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato il 1 marzo con l'accusa di corruzione. Anche oggi intanto Lotti respinge le accuse e si dice certo che alla fine la verità verrà a galla. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Matteo Renzi smentisce qualsiasi ipotesi di aumento dell'IVA. Il candidato alla segreteria del PD è anche soddisfatto dei risultati del congresso del Partito Democratico e della fiducia riconquistata dalle imprese. Annuncia anche la 14ª per i pensionati, lo ha intervistato Elisabetta Fiorito. Sicuramente c'è moltissimo ancora da fare. I piccoli, timidi segnali di ripresa che ci sono vanno incoraggiati. Trovo importante il segno del superammortamento e dell'iperammortamento che sta dentro la legge di bilancio e il piano Industria 4.0. Vediamo anche oggi l'Istat che dà degli indici di fiducia crescenti di alcune imprese, questo è un fatto positivo. Ci sono i segnali buoni per i pensionati. Avevamo detto che avremmo alzato la pensione minima per dare un segnale di equità sociale e finalmente questo avverrà a partire dalla 14ª che abbiamo previsto per il mese di luglio. Quindi ecco, si parla della prossima manovra economica, già ci sono molte ipotesi, alcune indiscrezioni dicono che lei non sarebbe contrario ad un aumento dell'IVA, è così? Ritengo che questa ipotesi sia totalmente assurda e mi sento di poter dire che il Partito Democratico non farà mai aumentare l'IVA in questo paese. È contento come sta andando il congresso? Sì, naturalmente sì, anche perché quando ottieni risultati belli e significativi ti rendi conto che hai una grande responsabilità. Sta schiacciando la concorrenza, ce lo possiamo dire, no? Non si schiaccia nessuno. Buona giornata. E adesso parliamo di lavoro. Dopo la bufera piovuta sul ministro Poletti per la frase sulla maggiore utilità di giocare al calcetto piuttosto che inviare i curricula, la Sinistra Italiana di Torino ha deciso di organizzare il trofeo Birra Poletti, il torneo di calcetto per giovani disoccupati, Memorial al lavoro retribuito. L'iniziativa sabato nell'area pedonale di Via Roma. E siamo alle elezioni amministrative, si è decisa la data, si vota l'11 giugno, i ballottaggi si terranno il 25. E poi la violenza senza fine contro le donne dopo il femminicidio di ieri a Pinerolo, il tentato femminicidio a Borgo Vercelli con la vittima che è in fin di vita. Oggi due coppie di anziani coniugi, i mariti uccidono le mogli, poi si suicidano in Campania e in Emilia-Romagna. Ancora due casi di omicidio-suicidio per due coppie di anziani, questa volta in provincia di Caserta e in provincia di Parma. A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, un 80enne, Gennaro Merola, ha ucciso, sembra a colpi d'ascia, la moglie Gerarda Di Pietro, di 77 anni, mentre dormiva. Poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa. La coppia di pensionati, che aveva due figli adulti, viene descritta dai vicini come una coppia tranquilla e nulla dunque lasciava presagire un epilogo così tragico. Colpisce il fatto che solo pochi mesi fa, in un condominio a poca distanza da questa coppia di pensionati, una guardia giurata uccise la moglie a colpi di pistola e poi si suicidò con un'arma regolarmente detenuta. Stesso copione in Emilia-Romagna, a Felegara, dove sono stati ritrovati senza vita due coniugi di 75 anni. L'uomo avrebbe ucciso con alcune coltellate la moglie, malata e costretta a letto, e poi si sarebbe tolto la vita. Ad accorgersi dell'omicidio-suicidio sembra sia stata la figlia della coppia, che si era recata a trovarli. L'uomo sembra non accettasse la malattia della donna, che si era aggravata negli ultimi tempi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma certo non aveva chiesto lei di essere accoltellata alla gola. E su questi ennesimi femminicidi sentiamo la professoressa Anna Boldri, criminologa, psicologa e docente di psicologia sociale all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Sono ennesimi casi di femminicidio che purtroppo dobbiamo continuare a chiamarli femminicidi. Perché dico purtroppo? Perché anche se hanno caratteristiche diverse, e qui non possiamo neanche più di tanto invocare o spiegare questi comportamenti come, no, il giovane marito che si sente abbandonato dalla donna fedifraga e quindi usa l'omicidio come forma estrema di potere e controllo. Quando questi omicidi avvengono anche in età avanzata, dove tutto quello che è la gelosia o dove sono comportamenti di coppia, dove subentrano anche altre variabili, non ci dovrebbero essere. Purtroppo capiamo ancora una volta una cosa, che gli uomini che commettono questi tipi di reato, fino alla fine, fino a che morte non li separi, pensano di avere il diritto di controllare la vita dell'altra persona, e magari non pone neanche una minaccia, no, perché se ne vuole andare, o anche se ne vuole andare perché le donne hanno questo diritto fino alla fine di poter scegliere per se stesse, sono costrette, come vediamo in questi casi, a pagare con la morte la loro voglia di libertà, di indipendenza, anche solo di parola, non anche solo di comportamenti. Ecco, questo ci deve assolutamente far riflettere sul significato della vita che danno questi uomini, che poi spesso con codarderia anche si tolgono la vita. Ecco, per esempio c'è un messaggio di Gianni da Bologna, dice: comunque più ne parlate di femminicidi più ne aumentano, la colpa è anche vostra, cari giornalisti. Gianni, non so se ci hai pensato prima di scrivere, se non ci fosse questo, a parte che il compito dei giornalisti è parlare di questo paese, di che anima ha questo paese, di che cosa succede, di che livello di civiltà, e se non avessimo insistito, in particolare con Effetto Notte, ma anche altrove, su su quello che succede, la legge sul femminicidio e aggravante non ci sarebbe neanche il termine che è stato anche inserito dall'ONU, non ci sarebbero alcune leggi contro lo stalking, ancora molto è da fare, abbiamo aderito anche alla convenzione di Istanbul, però diciamo i piccoli passi che si sono fatti anche perché se ne parla e non si nasconde ulteriormente sotto il tappeto, perché questa è soltanto la punta dell'iceberg. Parliamo del ventenne pestato a morte ad Alatri, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, due ragazzi fermati per l'omicidio di Emanuele Morganti, massacrato di botte ad Alatri, sono stati posti in regime di isolamento nel carcere romano di Regina Coeli, decisione che è stata presa per il rischio di ritorsioni e minacce nei confronti dei due, e si apprende che uno dei due fermati è stato scarcerato il giorno del delitto. Stasera, tra l'altro, si è tenuta una fiaccolata per ricordare Emanuele, poi ne parleremo. All'estero adesso la Cina conferma tutti gli impegni sul taglio dei gas serra, nonostante il presidente americano Donald Trump ieri abbia allentato le restrizioni sull'uso dei combustibili fossili. Per il ministro degli esteri cinese si tratta di una sfida di tutto il genere umano e Pechino ha tutta l'intenzione di tener fede e sostenere l'accordo sul clima faticosamente raggiunto a Parigi. E ora di nuovo in Italia. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi una parola. Comunque Totò prende, nonostante qualche strafalcione, questo modo originale di scrivere lettere, una laurea honoris causa alla memoria in discipline della musica e dello spettacolo, storia e teoria, che sarà conferita a Totò a 50 anni dalla sua scomparsa. Il riconoscimento, nato da una proposta di Renzo Arbere, è dell'Università degli Studi Federico II di Napoli e sarà conferito il prossimo 5 aprile nell'Aula Magna Storica dell'Ateneo Partenopeo. E ora parliamo di un premio ritirato in ritardo. Sono venuti 4 mesi, ma alla fine Bob Dylan ritirerà il premio Nobel dopo le polemiche. La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si è infatti svolta, vi ricordate, lo scorso dicembre a Stoccolma, ma il cantautore americano era stato il grande assente, aveva snobbato l'evento spiegando di avere altri impegni, di essere impossibilitato a partecipare. Ora Dylan ritirerà il prestigioso premio per la letteratura nei prossimi giorni, approfittando di 2 concerti che terrà nella capitale svedese. Ecco, giusto per questa coincidenza, visto che si trova lì, andrà a ritirarli. Bene, questo riassunto della giornata, quindi adesso la viabilità e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Per i vostri interventi 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Simone sulla Brexit dice: il risultato di grandi errori dei quali sono colpevoli anche loro, la mancata integrazione e l'assenza di democrazia fra tutti, rimanere con un piede fuori, quindi la Gran Bretagna, bloccare qualsiasi passo verso un'Europa unita e solidale, poi andarsene. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Il riassunto delle notizie ve l'ho appena fatto e adesso cominciamo invece alcune notizie a prenderle una per una e cominciare ad approfondirle con gli ospiti, naturalmente a partire dalla Brexit, da questo addio ormai oggi ufficializzato della Gran Bretagna all'Unione Europea. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre lo stesso, 349-238-6666. Alberto dice: credo che l'Unione Europea, così come predisposta, non vada bene, vada riformata, perché un Parlamento comune, una moneta comune non bastano se poi ciascuno fa i propri interessi. Francesco scrive: la Gran Bretagna laurea occasione di uscire dall'Unione Europea e instaurare rapporti privilegiati e unilaterali con gli Stati Uniti. Beata lei. Insomma, tanti pareri, vari pareri. Adesso vi ricordo velocemente quali sono appunto i fatti principali che vi ho riassunto. Londra che avvia la Brexit, come abbiamo detto, la prima ministra May che dice: non torneremo indietro, è un momento storico. E poi Juncker, presidente della Commissione Europea, che dice: lo rimpiangerete questa scelta. L'inchiesta Consip, il presidente della Regione Emilia-Emiliano, della Regione Puglia-Emiliano, ascoltato dai PM oggi come testimone, ma il ministro Lotti, che è coinvolto in questa inchiesta, dice: sono sereno. E poi sui migranti, i minori non accompagnati non saranno più respinti, è passato questo decreto al Senato, poi andrà alla Camera. Gentiloni dice è stata una scelta di civiltà. E poi il DEF, documento di economia e finanza, che sarà in aula il 26 aprile, e Renzi dice l'aumento dell'IVA è una cosa assurda. Il caso di Alatri, uno dei due fermati, scarcerato il giorno del delitto. I due fratelli arrestati sono in isolamento a Regina Coeli. Oggi altri due femminicidi, dopo quelli di ieri, uno nel Casertano e uno nel Parmense. E poi via libera all'acquisto di farmaci non autorizzati in Italia, allarme anche per quanto riguarda il morbillo dalla ministra della salute Lorenzin. Ci sono moltissimi casi. E poi Bob Dylan, che finalmente, siccome starà a Stoccolma nei prossimi giorni per due concerti, si decide ad andare a ritirare il premio Nobel. Quindi abbiamo detto che oggi è il giorno ufficiale della Brexit, con questa consegna della lettera firmata dalla prima ministra britannica Theresa May all'Unione Europea viene sancito l'inizio di questo iter del divorzio dall'Unione. Il plico, pensate, che sarebbe stato custodito fino all'ultimo in una località segreta per evitare contestazioni. Theresa May ha commentato, l'avete sentito anche all'inizio, non si torna indietro, è un momento storico, abbiamo eseguito la volontà del popolo. Trump ha fatto sapere che rispetta la volontà degli elettori britannici e auspica che la Gran Bretagna resti un leader forte in Europa e nel mondo, con ottimi rapporti con gli Stati Uniti. E insomma, dopo decenni di allargamenti, di crescita man mano dei vari paesi che aderivano all'Unione Europea, per la prima volta c'è una marcia indietro, c'è un divorzio, un paese lascia l'Unione Europea, non è un paese qualsiasi, naturalmente la Gran Bretagna, che dopo 44 anni se ne va. Ne parliamo con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Ciao Leonardo. Buonasera a voi. Ci sono stati vari commenti, no? Quello che colpisce particolarmente è quello del Presidente della Commissione Europea Juncker, che ha detto voi rimpiangerete questa scelta. Beh, probabilmente, forse non ha torto, nel senso che probabilmente c'è già tanta gente che la rimpiange. A questa scelta si è arrivati in un modo bizzarro, con un referendum che non avrebbe mai dovuto essere indetto, che è stato indetto per ragioni interne al Partito Conservatore, nella certezza che sarebbe passato il sì all'Unione Europea. Poi, per uno di quegli imbizzarrimenti della storia, le cose sono andate in modo completamente diverso, e in quel no all'Europa in realtà c'erano tanti no: no al governo, no alla disoccupazione, no a un sistema che in modo diverso rendeva insoddisfatti ampi strati della popolazione. Quindi nel no all'Europa in realtà ci possono essere tanti altri no. D'altra parte, questa è la volontà popolare e la Brexit va rispettata. Più opinabile è l'interpretazione della Brexit, cioè il governo britannico ha dato un'interpretazione sempre ambigua come al solito, o no? Un piede dentro, un piede fuori anche in questo caso? No, direi un'interpretazione estrema, cioè fuori da tutto, fuori dal mercato interno, fuori dall'unione doganale, in una cesura quasi completa, volendo mantenere naturalmente buoni rapporti, cioè non è che siamo in guerra con la Gran Bretagna. Chiaro che manterremo buoni rapporti e loro manterranno buoni rapporti con noi. Però adesso c'è, come dire, da definire i termini di un divorzio molto più complicato di quanto si possa credere. Senti Leonardo, dice questo ascoltatore, interessante che Scozia e Irlanda del Nord abbiano espresso la volontà di rimanere in Unione Europea, no? Sappiamo che la Scozia, la prima ministra scozzese da tempo diceva che la Scozia avrebbe fatto un referendum per staccarsi dalla Gran Bretagna, per rimanere quindi in Unione Europea. Sì, perché sia l'Irlanda del Nord che la Scozia hanno votato al referendum 23 giugno hanno votato a favore della permanenza nell'Unione Europea, cioè se si piglia il voto e si divide per nazioni del Regno Unito, Inghilterra e Galles hanno votato per lasciare l'Unione Europea, Scozia e Irlanda del Nord hanno votato per restare nell'Unione Europea. E qui si innesca un conflitto, come dire, costituzionale, su che diritti ha la Scozia di rivendicare la sua autonomia nel voto. La Corte Suprema ha detto che non ne ha, cioè questa è una competenza del Regno Unito. Però inevitabilmente questo spiana la strada a una soluzione politica, cioè quella di un nuovo referendum scozzese su sull'indipendenza dal Regno Unito, che potrà come dire, orientare la popolazione, che a quel punto dirà: vogliamo stare in un Regno Unito che non è più nell'Unione Europea, o vogliamo lasciare il Regno Unito sperando di rientrare nell'Unione Europea? Questo sarà il quesito di fatto che sarà sottoposto agli scozzesi, quando già sulla data si discute, perché gli scozzesi vorrebbero entro i prossimi 2 anni, cioè entro il periodo del negoziato. La prima ministra Theresa May ha già detto che dovrà essere eventualmente dopo. Quindi abbiamo detto un negoziato, un iter che durerà 2 anni. Poi abbiamo detto Juncker e rimpiangeranno questa scelta, perché l'Unione Europea, con tutti i suoi limiti, è il miglior posto al mondo in cui vivere. Però evidentemente buona parte dei britannici non la pensano così. Grazie Leonardo Maisano da Londra. Ciao Leonardo. Arrivederci. E la cancelliera Merkel, fra i vari che hanno reagito, i leader europei, ha detto: il nostro impegno è soprattutto per ridurre l'impatto sui cittadini europei, soprattutto per tanti tedeschi, europei in genere, in Gran Bretagna. Fra questi europei c'è anche Caterina Soffici, che è giornalista e scrittrice che vive da anni a Londra, autrice del libro appena uscito Nessuno può fermarmi, che in qualche modo è collegato a quello che sta succedendo. Caterina, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Tu, da italiana, che clima stai vivendo? Che contraccolpi pensi di poter subire o meno da questo divorzio? Ma senti, io da italiana sto alla finestra e sto a guardare, anche perché noi non possiamo fare niente, nel senso non abbiamo potuto votare, perché nonostante ci sia persone qui che sono residenti e pagano le tasse da 30 anni in Inghilterra, e agli stranieri, cioè a chi non ha un passaporto britannico, non è stato chiesto neanche un parere su questa vicenda. Quindi già questo ti può far capire il senso un po' anche di frustrazione in cui tu sei, vedi passare una decisione che comunque è una decisione che potrebbe impattare in maniera anche pesante la vita di molte persone qua, senza aver potuto neanche partecipare a questa cosa. E per il momento, come è specificato anche nella lettera che oggi Theresa May ha consegnato, i diritti non cambiano, quindi chi è qui è qui. Circolano già un sacco di cose, io so di persone che sono andate a fare il passaporto, a chiedere il passaporto britannico. D'altro canto ci sono anche un sacco di inglesi che hanno chiesto il passaporto europeo, hanno saltato il consolato italiano alla ricerca di avi o di una parentela di sangue, c'avevo un cugino, uno zio, un qualcuno, perché invece altri hanno appunto paura che se il giorno che cambiano le regole, casomai rimangono bloccati in Inghilterra, devono chiedere un visto, casomai usare un passaporto diverso per entrare in Europa. E c'è anche questa storia di questo permesso di residenza, che sarebbe un permesso di residenza permanente che danno alle persone che sono residenti e che pagano le tasse in Inghilterra da dopo 5 anni, che quindi potresti avere anche tu. Quel questionario di 80, sì io lo potrei fare. Io non l'ho fatto e non faccio niente per il momento, perché uno, sono di base un ottimista, quindi penso che non lo so, forse sono anche un po' ingenua, però io penso che troveranno un accordo, perché gli inglesi comunque non sono mai stati in Europa. Cioè, se tu la pensi, si dice sì che loro sono entrati nel mercato, ma loro con la testa non sono mai stati in Europa. Qui misurano le misure si fanno in piedi, in yarde, in miglia. Si compra la farina a once, le ricette sono tutte, cioè io devo tradurre le ricette delle torte, delle ricette di cucina. E chissà cosa combini, non voglio immaginare. Si può neanche immaginare, ma comunque per hanno dire, sempre cioè, vantato la loro diversità. Guida a sinistra, hanno la sterlina, sono tutti elementi che ti dicono come comunque questo paese è Europa, è sempre stato Europa, però è sempre stato fuori dall'Europa, no? Quindi questa cosa qui, diciamo così, dal punto di vista pratico, io non sono molto preoccupata, ecco, diciamo così. Quello che invece mi preoccupa di più, e che qui mi ricollego anche appunto al libro che citavi e che è il romanzo che ho appena pubblicato, è il sentimento di sentirsi stranieri in un posto dove prima ti sentivi a casa tua. Che questo è la cosa che io personalmente, ma poi ti dico, parlando anche proprio con la comunità, con le persone della comunità italiana, soltanto a Londra ci sono mezzo milione di persone, mezzo milione di italiani, per cui capisci che è un'enorme città, no? Sì. Allora, tu sei qua e cioè, tu arrivi a Londra e come chiunque, credo, cioè, pensa di essere in un posto dove ti senti a casa, e è sempre stato questo sentimento di siamo tutti parte di una stessa grande città, una grande città cosmopolita, dove tutto si muove, dove tutti vanno, tutti vengono, dove non guardi neanche, cioè tu qui a Londra non io non mi rendo conto se una persona davanti a me è bianca, nera, gialla. Dici, quindi il rischio potrebbe essere che ci si senta invece... Perché è talmente comune che pensare che c'è una così varietà di razze, di lingue, di tutto, e questa cosa secondo me è già cambiata. Questo è già cambiato, quindi indipendentemente dal fatto che poi trovino un accordo, non lo trovino, tu possa poi viaggiare, la percezione gli uni degli altri è già cambiata. La percezione è che adesso sì, gli inglesi ti dicono noi siamo noi, voi siete voi. Caterina, a questo proposito abbiamo ancora 30 secondi per ricordarci perché il tuo libro Nessuno può fermarmi è collegato a questa cosa. Allora, a questo proposito ti dico, io ho ritrovato una storia che era un po' dimenticata, anzi quasi sconosciuta in Italia, di cosa è successo agli italiani quando l'Italia entra in guerra con la Gran Bretagna. E l'episodio fulcro è la tragedia della Randora Star, dove 446 italiani muoiono su questa nave perché vengono internati, cioè vengono arrestati in una notte, e come la cosa che mi fa più impressione in questo momento qui è come viene, come è stato costruito l'idea del nemico. Anche lì erano persone che erano qui da due generazioni, casomai, o persone che erano qui arrivate e lavoravano, cioè 30 anni che erano qui, sposati con gli inglesi, i loro figli erano nell'esercito britannico a combattere a fianco degli inglesi. I loro padri, oppure il fratello che non era nell'esercito, viene arrestato come sospetta spia. E molti finiscono su questa nave che poi viene silurata e muoiono. Questa cosa, capito, è una cosa che è molto... chi legge il libro, anche adesso, io poi ho scritto un romanzo, quindi un romanzo dove c'è dentro amore, passione, cioè io ho fatto una storia per raccontare il pretesto, per raccontare questa cosa qua. Ma io quando ho letto questa, quando io mi sono imbattuta per caso, perché non la conoscevo questa storia, come tantissimi, pochi la conoscono, diciamo, questa storia della Randora Star, io proprio ho avuto questa sensazione, come dire, ma non è possibile che da un giorno all'altro improvvisamente ci si veda. È vero che in modo diverso guerra, noi e voi. Però certo, è l'irrazionalità delle cose che fa accadere queste tragedie. Chiarissimo. Ecco, Caterina Soffici, quindi Nessuno può fermarmi, ci ha raccontato la sua esperienza di italiana, magari ci riaggiorniamo tra un po' per capire come ti senti. Grazie intanto da Londra. Quando ciao Caterina. Volete, quando volete, saluti, grazie mille. Ciao. Ciao. Adesso ci dobbiamo fermare per questa pausa, c'è la pubblicità, molti vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, Walter che dice l'Inghilterra fuori, la democratica e laica Turchia dentro l'Europa, ma siamo su scherzi a parte. Allora, per la Turchia mi pare che sia ancora molto lontano, anzi si è allontanato, diciamo, il processo di integrazione nell'Unione Europea, e poi del resto la Gran Bretagna ha deciso e così è, tra poco. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana una storia particolare, molte all'insegna della tenerezza, il falco e il gabbiano. La cagnolina Laika, il primo essere vivente scaraventato nello spazio per un volo senza ritorno. Il viaggio dalla Scozia ai mari del sud di uno dei più grandi scrittori degli ultimi 200 anni, Robert Louis Stevenson. Voliamo sulle ali di carta per raccontare dell'amore infelice di Cyrano de Bergerac. José Luis Chilavert, il portiere con il vizio del gol. E poi, assieme a Massimo Boldi, raccontiamo la storia triste del principe dei clown, Benny Hill. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, Il Falco e il Gabbiano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con giusta conduttrice anche con voi, Roberta Giordano. Per i vostri messaggi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666. Giorgio da Roma scrive: Gran Bretagna, abbiamo appena parlato della Brexit, se n'è andata perché vuole selezionare i propri immigrati, beati loro, dice. Poi invece Roberto da Roma: la Gran Bretagna rimpiangerà questo passo, il mondo funzionerà per grandi agglomerati demografici politici, l'Europa ha anche una grande cultura comune da nord a sud, quindi li rimpiangerà. Poi Guido dice, anzi Edoardo che dice: sempre stati fuori dall'Europa, spocchiosi, filo americani, ciao e non arrivederci ai britannici. Salvatore dice: sì, torniamo ai comuni e perché no, tanto Stati Uniti e Cina poi saranno clementi nelle trattative con i singoli stati europei come il leone con l'agnello, illusi. Michele allora scrive che allora esiste ancora la libertà, significa la Brexit, anche quella di dissentire e uscire, ma solo per qualcuno. Adesso cambiamo argomento, tra pochissimo parliamo della vicenda terribile di Alatri. Tra l'altro c'è un ascoltatore che aggiornava su un'altra notizia che magari ritrovo dopo. Vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata, se avete acceso puntualmente alle 21. Brexit è consegnata all'Unione Europea la lettera che avvia l'iter del divorzio. La prima ministra britannica May dice: è stata eseguita la volontà del popolo, ma il presidente della Commissione Europea Juncker commenta: è una scelta che rimpiangerete. L'inchiesta Consip alla Procura di Roma, in Procura di Roma il presidente della Puglia Emiliano, sentito come testimone, il ministro Lotti dice: sono sereno. Immigrazione, approvato in Senato il decreto di conversione del decreto sui migranti, ora passa alla Camera, i minori non accompagnati non saranno più respinti. Elezione amministrativa, si vota l'11 giugno, i ballottaggi ci saranno il 22. La violenza senza fine contro le donne, dopo il femminicidio di ieri a Pinerolo e il tentato femminicidio con la vittima in fin di vita a Borgo Vercelli, oggi altri due nel Casertano e nel Parmense. Il ventenne pestato a morte ad Alatri, ne parleremo tra pochissimo. E poi premio Nobel, con 4 mesi di ritardo Bob Dylan andrà a Stoccolma a ritirarlo, ma sarà una cerimonia privata. Quindi ritorniamo sulla storia di Emanuele Morganti, il ventenne massacrato, pestato a morte fuori da un locale dove era andato con la sua ragazza ad Alatri, in provincia di Frosinone, morto dopo 2 giorni di agonia. Ci sono diversi indagati, ma in carcere sono finiti 2 fratelli che sono stati messi in isolamento perché si teme in carcere che ci siano delle ritorsioni, dei linciaggi. Sono Mario Castagnacci, di 27 anni, e Paolo Palmisani, di 20 anni, accusati di omicidio volontario. Uno dei 2 fermati si scopre, chiedo conferma a Stefano De Angelis del Messaggero, che saluto. Ciao Stefano. Sì, buonasera. A proposito degli sviluppi dell'inchiesta, pare che uno dei 2 fermati era stato arrestato a Roma giovedì 23 marzo, sì, per possesso di centinaia di dosi di cocaina e poi rilasciato proprio il giorno dell'omicidio. Era il giovedì, insieme ad altre 3 persone erano state arrestate tutte e 4 appunto per droga. Poi l'indomani, durante l'udienza, alla fine, rispetto alla richiesta del PM, c'è stata la convalida dell'arresto e poi la remissione in libertà delle persone, tra cui appunto Castagnacci, che poi, e quindi restiamo a venerdì, quindi Castagnacci praticamente dopo la decisione del GIP è tornato da Alatri. E la sera stessa è successo, diciamo, quello che è successo, il pestaggio, quindi poche ore dopo, diciamo, la fine dell'iter lì davanti al GIP. Oggi diceva il suo avvocato, a parte che uno dei 2 avvocati ha lasciato perché c'è un clima di tensione, di intimidazione, di minacce, no? Ha lasciato il suo ruolo di legale, ma comunque aveva detto che Castagnacci è scioccato, che non si rende conto di quello che ha fatto. Ma entrambi, innanzitutto entrambi i fermati dovrebbero essere difesi da un legale di Roma al momento, tutti e 2 dalla stessa persona. E poi in provincia di Frosinone non solo, diciamo, l'avvocato di Castagnacci, ma ci sono stati anche altri episodi di minacce e di intimidazioni nei confronti di altri legali. Al momento ce n'è uno che difende 2 indagati, si tratta di 2 buttafuori, che però ha dichiarato che comunque andrebbe contro un po' quella che è lo spirito della professione, rifiutando di assistere 2 indagati. Senti Stefano, è vero che poi i 2 che sono in carcere erano andati dopo il pestaggio a morte a vantarsi in un altro locale di questo pestaggio? Ma questo, diciamo, è così, leggendo, insomma, vedendo un po' gli atti e dalle testimonianze, sembrerebbe proprio di sì, però è una questione, questa al vaglio ancora degli investigatori, però stanno verificando questa cosa proprio nei minimi dettagli, perché è un tassello pure questo importante per ricostruire un po' in effetti tutta la serata di venerdì scorso di Alatri. Comunque, a parte loro due, ci sono altri 5 indagati in questa inchiesta? Al momento sì, 2 fermati, 5 indagati, oggi ci sono stati altri interrogatori di persone però al momento che non sono indagate. Grazie Stefano De Angelis del Messaggero. Grazie a voi. Ciao Stefano, buon lavoro. E questa sera c'è stata una fiaccolata nel paese del ventenne di Emanuele Morganti per ricordarlo, e c'era la nostra Chiara Piselli a seguire la fiaccolata. Chiara, ciao. Sì Roberta, ciao, io sono ancora qui nel centro storico in piazza Regina Margherita, dove c'è ancora un po' di movimento dopo la fiaccolata di questa sera, appunto in ricordo di Emanuele, come dicevi tu, e qui davanti al mio music club, che il giovane ventenne è stato pestato a sangue per poi spegnersi dopo 2 giorni di agonia all'Umberto I di Roma. È stata una marcia molto silenziosa, nessuno si è permesso di disturbare, è molto molto partecipata, si parla di oltre 1 migliaio di persone, si è snodata per le vie del centro storico, dalla piazza del Comune fino al luogo del fatto, e poi è stata fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Morini come segnale contro l'indifferenza. Gran parte della comunità era presente, non solo di Alatri ma anche dei comuni limitrofi, tanti adolescenti, tanti bambini, tanti fiori deposti sul luogo del massacro. Il sindaco ha segnalato che c'è un'aria di tristezza, di smarrimento, la città è impietrita, disorientata, vuole giustizia, vuole reagire, ha detto. E invece il parroco ha chiaramente parlato di non violenza, ha invitato a lasciar cadere l'odio, però il clima che ho potuto registrare qui è piuttosto teso, c'è rabbia diffusa tra i giovani, la percezione che un episodio simile sarebbe potuto cadere a chiunque. I cittadini sono diffidenti, molti dicono di vergognarsi per quanto accaduto, temono anche che l'immagine di Alatri sia ormai rovinata, compromessa, perché verrà sempre accostata questa cronaca nera. Intanto è anche stato intensificato il numero delle pattuglie nel comune, sono anche aumentati i controlli sui social network, dove, come ricordavi prima, c'è stato anche chi ha invitato i familiari di Emanuele a farsi giustizia da soli, insomma sui social network si stanno rincorrendo un po' un clima di intimidazione e di minaccia. Brutta atmosfera, insomma. Sì, dice, brutta atmosfera. Dice un ascoltatore, appunto, si rischia di aggiungere violenza, già la violenza efferata che c'è stata. Comunque, esattamente. Come dicevi tu, si respira questa tensione. Grazie Chiara Piselli, grazie. Grazie a te Roberto. Ciao Chiara. Prima di lasciarci per aggiornare chi viaggia, un altro messaggio di nuovo sull'Europa. Riccardo che dice: Europa, Roberta, faccio il medico all'estero, ti posso dire che comunque ancora ci sono cose obsolete per il cittadino europeo. Non è giusto che un italiano in Francia debba farsi sommergere da tanta burocrazia, come ad esempio per avere l'assistenza sanitaria. Ci sono altri esempi, dice Riccardo. A tra poco. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo allora con le notizie, tra poco parleremo del decreto migranti e intanto anche Doriano dà un'altra notizia da aggiungersi ai femminicidi di ieri e di oggi. In questi 2 giorni, dice, a Firenze un fidanzatino di 16 anni picchia la ex fidanzatina perché non ha accettato di riallacciare la relazione, la picchia e le ruba il cellulare, anche lei aveva accettato l'ultimo incontro, e conclude Doriano: così giovani e così maschilisti. Lo abbiamo ormai visto, conferma da tutti i casi successi, che è trasversale, che non c'è un'età precisa, un'estrazione sociale precisa, una precisa collocazione geografica. È veramente purtroppo trasversale questo fenomeno della violenza sulle donne. Adesso cambiamo tema, vi ricordo velocemente quali sono i fatti principali di questa giornata, appunto a partire dalla Brexit con l'ufficializzazione, questa lettera consegnata e firmata dalla ministra May alla prima ministra May all'Unione Europea, e quindi inizia l'iter che durerà 2 anni di questo divorzio. Poi l'inchiesta Consip con il presidente della regione Puglia Emiliano, che oggi è stato ascoltato dai PM di Roma come testimone, e il ministro Lotti, che è coinvolto nell'inchiesta, dice: sono sereno, migranti minori non accompagnati non saranno più respinti. Questa la decisione presa oggi, ne parleremo tra pochissimo. E poi Alatri, uno dei fermati scarcerato proprio il giorno del delitto, ne abbiamo appena parlato con un cronista del Messaggero, e poi parlato anche di questa fiaccolata nel paese stasera in ricordo di Emanuele. E un'ultima cosa un po' alleggerente, Bob Dylan, che a distanza di 4 mesi dal premio Nobel che doveva ritirare a Stoccolma, finalmente lo ritirerà, giusto perché è in Svezia prossimamente per 2 concerti. Questo quindi è il tema adesso, immigrazione e norme italiane. Oggi è stato approvato in Senato con 145 sì, 107 no e un astenuto il disegno di legge di conversione del decreto migranti per il quale il governo aveva chiesto il voto di fiducia. Ora passerà alla Camera, però diciamo è quasi cosa fatta. In base a questo testo, fra le altre cose, i minorenni che arrivano in Italia senza una famiglia non potranno più essere respinti e avranno gli stessi diritti dei loro coetanei nell'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha commentato così questa scelta, dicendo una scelta di civiltà per la tutela e l'integrazione dei più deboli. Su questo coinvolgo Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI per l'area Europa, l'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Villa. Buonasera a voi. Quindi questa è una norma importante, questa dei minori, poi ce ne sono altre che riguardano per esempio anche la richiesta di asilo, che non ci sarà più il secondo grado di appello, nel senso che se viene respinta la prima richiesta in prima istanza non ci sarà più la possibilità di ricorrere in appello? Esatto, e qui in effetti sì, ci sono, in realtà i decreti sono due, uno è quello approvati in versione definitiva alla Camera, quello sui minori non accompagnati, di cui avete detto benissimo, e questo secondo me è un grande passo avanti. Siamo tra i primi in Europa a aver regolarizzato, aver deciso che i minori non accompagnati non potranno essere respinti, e dall'altra parte pensate anche al fatto che i minori appunto vanno dalla persona, dall'infante, che di solito comunque non arriva nel barcone non accompagnato, ha magari un minore che ha 16 anni o dichiara di averle e magari invece ne ha 18 per avere dei diritti. Quindi insomma facciamo un passo avanti anche laddove magari ci sono situazioni non perfettamente regolari, ma decidiamo di tutelare tutti. Questo secondo me è un grande segnale nei confronti dell'Europa, che invece magari fa qualche passo indietro. Dall'altra parte c'è quest'altro decreto che invece non è ancora in versione definitiva e, come dicevi benissimo Roberta, è assolutamente... diciamo fa dei passi forse un po' indietro, ecco. Elimina un grado di giudizio laddove alla fine la giustizia italiana di solito ne garantisce tre. Pensate che uno dei due gradi è comunque un grado di giudizio diciamo di tipo amministrativo, quindi insomma neanche davanti a un giudice proprio ma davanti a una corte diciamo fatta ad hoc, quindi insomma si va qualche passo indietro pur di velocizzare le procedure di rimpatrio per chi non ha diritto in primo grado, ecco. E poi Matteo, c'è anche l'apertura di centri alternativi ai CIE? Sì, da questo punto di vista i CPR, centri per il rimpatrio, non cambiano moltissimo la sostanza, ovvero cambia il nome, cambia il nome, cambia anche il loro numero e anche cambia il numero di persone che accoglieranno. Questo, se volete, è un passo avanti, nel senso che prima i centri erano più grandi, a volte si generavano situazioni di tensione tra etnie diverse, nazionalità diverse, persone che comunque essendo state respinte non erano molto felici di essere lì dentro. In questo caso si pensa di arrivare a una gestione molto più diffusa sul territorio, questo mi sembra un passo avanti. Dall'altra parte si va un po' nella direzione dell'Europa. Noi qualche anno fa avevamo detto non vi deteniamo per più di tre mesi, perché comunque se entro tre mesi non vi riusciamo a rimpatriare non è un problema vostro, ma probabilmente è un problema dello stato di partenza che non vuole prendervi. In questo caso diciamo arriviamo fino a quattro mesi e mezzo. Pensate che una Commissione europea ci aveva raccomandato di arrivare a 18 mesi di detenzione, insomma quasi una incarcerazione di un anno e mezzo, e questo appunto, noi facciamo qualche passo verso la Commissione, però per fortuna non arriviamo fino a quel punto. Anche se, concludendo Matteo, tutto questo mentre ci sono paesi come per esempio l'Austria in questi giorni che ha detto cerchiamo comprensione dall'Unione Europea perché vogliamo ritirarci dall'accordo sui ricollocamenti, no? Quindi siamo sempre un po' alle solite praticamente. Sì, diciamo che l'Austria forse ecco, è quella che di più tra i paesi dell'Est Europa, Centro Europa, si la può permettere perché effettivamente sta facendo tanto in senso di accoglienza e integrazione. Infatti ha detto noi abbiamo però, fatto abbastanza e a questo punto ci fermeremo. Lo stanno facendo però ci sono, diciamo, dal cattivo esempio rispetto ad altri paesi dell'Est. Grazie Matteo Villa. Ciao Matteo dell'ISPI. Ci risentiamo brevemente alle 22.